Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Cari radioascoltatori, buongiorno e benvenuti all'ascolto di una nuova puntata. Al nord continuano a crearsi gli anticorpi che purtroppo in 40 anni difficilmente si sono sviluppati contro la presenza delle mafie. Perché dico 40 anni? Perché sono circa 40 anni che sono ricorsi da quando lo Stato ebbe la geniale idea di mandare al confino o in soggiorno obbligato i mafiosi in giro per l'Italia, no? E al nord, così anziché rimanere in una gabbia che gli competerebbe possibilmente nelle patrie galere, sono andati a dare e a insegnare il proprio verbo di illegalità in giro per l'Italia. Una scelta sciagurata. Gli anticorpi si creano ringraziando Dio ovunque nel nord, nel nord-est, a partire dal confronto con gli alunni delle scuole, perché è lì che bisogna cominciare a creare e diffondere legalità. Benvengono iniziative di questo tipo, come quella che ha preso il comune di Piazzola sul Brenta, che ha deciso di incontrare alcune persone che hanno qualcosa da dire in materia, con un titolo di un convegno, comunque di un incontro con gli alunni della scuola primaria Camerini, che è un bellissimo programma: i costi economici e sociali dell'illegalità. Per parlare noi abbiamo chiamato l'assessore con delega alla scuola, alla cultura e alle politiche giovanili, Alessandro Paiusco. Buongiorno Paiusco. Buongiorno a lei. Allora, perché avete deciso di fare questo incontro? Mi tolgo questa curiosità. Perché proprio a Piazzola sul Brenta, siamo in provincia di Padova, siamo in una zona ricchissima, siamo in una zona in cui teoricamente le mafie non dovrebbero esistere. Allora, io completo il quadro dicendo che appunto l'organizzazione è sia il comune, sia la fondazione Ghirardi, sia i rappresentanti di Libera nel territorio. Perché a Piazzola sul Brenta e perché nel nord, la sua domanda, e perché soprattutto le scuole? Innanzitutto perché il nord, cosiddetto ricco nord-est, famoso per tante altre cose, non è immune alle mafie o all'illegalità. Perché se le mafie uccidono da altre parti in maniera molto evidente, qui a nord si fanno in qualche maniera i soldi, e spesso fanno investimenti o nel ciclo di rifiuti o quant'altro. Partire dalle scuole è importantissimo. I nostri incontri che abbiamo sviluppato in più giorni durante appunto questi convegni, perché appunto non saranno uno ma è un ciclo di conferenze e convegni, partono dalle scuole, come diceva lei, dagli alunni della primaria Camerini, quindi bambini sotto i 10 anni, quindi giovanissimi che magari poco hanno sentito parlare di mafia, ma è giusto che quei anticorpi che lei citava all'inizio vengano in qualche maniera sviluppati già da subito, almeno cominciano a parlarne in maniera anche molto più. Ecco, mi fa molto molto piacere. Mi fa piacere, come vede, io non le ho chiesto e non mi interessa neppure sapere a quale coalizione politica appartiene, perché dico sempre che la lotta alle mafie non ha e non può avere colore politico. Esattamente. Mi interessa invece sapere, suppongo lei sia giovane, dalla voce mi sembra abbastanza giovane. 30 anni, sì. Ancora più bello, guardi, questa puntata mi piace perché parlo con un giovane amministratore della provincia di Padova che ha la consapevolezza della diffusione delle mafie nel nord e che si rivolge ai giovani. Spettacolare, dico che è una cosa bellissima. Allora, però, caro Paiusco, tra i suoi coetanei amministratori e no, c'è questa consapevolezza che bisogna parlarne? Cioè, la vostra iniziativa come è stata presa dall'opposizione, che non voglio neppure sapere di che colore politico sia? È stata presa, come dire, consapevolmente? Magari hanno sposato la vostra proposta, oppure manca quell'humus che rende più facile svolgere le cose? Guardi, io posso dire essenzialmente della mia esperienza, per carità anche molto breve, ho 30 anni, però già almeno da una decina d'anni nell'ambito amministrativo, che quando si parla di enti locali e quindi in qualche maniera i politici, al di là del colore, che lavorano nel territorio, a stretto contatto con le gente e con i temi, spesso il colore politico non conta, certo. Diciamo, contano i temi e le tematiche. Tematiche così forti vengono sposate da tutti, quindi da membri anche in qualche maniera dell'opposizione che si trovano dall'altra parte, ma con cui c'è sicuramente un concorso di idee e di adesione a questi valori. L'antimafia, la legalità, insegnare la legalità, come diceva lei, non ha assolutamente colore, è patrimonio di tutti, e quindi ecco che queste iniziative vengono condivise con tutti, diciamo, i politici, anche se dopo è più che una passione, è più che un mestiere dal punto certo. quando si parla di enti locali. Certo. E quindi devo dire, non c'è assolutamente uno scontro rispetto a questi temi, c'è assolutamente invece una collaborazione, una comunione di idee, una collaborazione. Mi fa piacere che a Piazzola sul Brenta, siamo in provincia di Padova, una meravigliosa provincia, ci siano amministratori giovani che senza colore politico si impegnano a portare il verbo della legalità fin nelle scuole, parlando di mafia con i più piccoli. È così che bisogna fare, da lì bisogna iniziare. Io ringrazio l'assessore alla scuola del comune di Piazzola sul Brenta, Alessandro Paiusco, per il suo intervento. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, a Laura Faggini in redazione, e Roberto Galullo vi augura una buona giornata.